Focus Economia. Benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, puntata nella quale parleremo sicuramente della manovra, come avete già sentito nei nostri giornali radio. È appena finita la cosiddetta conferenza unificata, ossia quella che tiene dentro Stato, Regioni, Province, Comuni, ed è arrivato parere negativo dagli enti locali sulla manovra, appunto. Vi parleremo di questo, ma vi parleremo anche delle proteste di un altro settore, quello dell'agricoltura. Parleremo di federalismo, perché oggi è stato varato il secondo decreto attuativo sul federalismo. Magari domani cercheremo di approfondire un pochino meglio, perché stanno uscendo in questo momento solamente delle indiscrezioni. Nel frattempo il ministro dell'economia Giulio Tremonti è tornato sul tema dell'imposta unica per i comuni, quella che è stata chiamata probabilmente impropriamente una nuova ICI, e su questo c'è da registrare anche la reazione del presidente dell'ANCI, Sergio Chiamparino. Saremo lieti oggi di fare un bel approfondimento di borsa. Perché? Perché è una giornata, almeno fino al momento, splendida. Il FTSE MIB guadagna il 2,5%, il FTSE All-Share il 2,31%, tutto sulla scorta di dati americani che sono stati ben interpretati dal mercato, interpretati in maniera positiva. Tant'è vero che l'America va molto bene, il Dow Jones guadagna il 2,13%, il Nasdaq il 2,70%, e l'euro che scende lievemente a quota 1,29,09 in questo momento. Iniziamo, da come sempre, dalle notizie in breve di questa giornata. E come sempre, quando spirano, per così dire, venti di ripresa, va su anche il petrolio, aperto in rialzo dello 0,9%, a $77,26 al barile. Parliamo dell'apertura di New York. E restando in America, ci sono i sussidi di disoccupazione, come si diceva. Sono questi i dati che il mercato ha interpretato evidentemente positivamente, o meglio, non proprio i sussidi di disoccupazione. Le richieste sono aumentate la scorsa settimana di 37.000 unità, e questo dato è peggiore delle previsioni. E però c'è il superindice economico, che evidentemente gli analisti hanno valutato un pochino di più. È calato dello 0,2% contro la stima di un meno 0,3 avanzata dagli analisti, così come le vendite di case esistenti, anche qua scese del 5,1%, ma dato anche qua migliore delle attese. In tutto ciò, proprio ieri il presidente della Fed, Ben Bernanke, aveva parlato di una ripresa un pochino più stentata negli Stati Uniti. Ed evidentemente, come vi stiamo raccontando, i mercati hanno deciso di non tenerne così tanto conto, o meglio, ne hanno tenuto conto ieri e poi oggi, insomma, si sono ripresi. Qualche trimestrale, quella di Credit Suisse, la seconda banca svizzera, che ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 1,6 miliardi di franchi svizzeri, si parla di 1,2 miliardi di euro, ha superato le attese. I ricavi core netti sono risultati pari ad 8,4 miliardi di franchi, ossia 6,2 miliardi di euro. Il primo semestre dell'anno si conclude con un utile netto di 3,7 miliardi di franchi, ossia 2,7 miliardi di euro. Per quanto riguarda l'Italia, si accennava al federalismo, vi diamo le ultime, quelle che stanno uscendo proprio in questi minuti. Allora, è arrivato il primo ok del Consiglio dei Ministri questa mattina al decreto sui fabbisogni standard. Secondo la bozza, le cui indiscrezioni stanno circolando in questi minuti, sarebbe previsto un blocco ai fondi per i comuni e per le province che non collaborano all'attuazione del federalismo. Si prevede espressamente sanzionato con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dei trasferimenti a qualunque titolo erogati. E poi stop al criterio della spesa storica a partire dal 2012, ma con un'attuazione graduale che prevede l'entrata a regime per tutte le spese nel 2016. Il testo prevede che il 2012 sia individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante appunto il superamento di questo meccanismo, e ogni 3 anni revisione dei fabbisogni standard. Tra l'altro, nella definizione dei fabbisogni standard, ossia una media di massima del fabbisogno per ciascuna prestazione che un ente locale deve erogare, conterà anche il grado di soddisfazione degli utenti. Si è parlato oggi anche, parliamo di federalismo fiscale naturalmente e parliamo anche di fisco, se ne è parlato oggi, torneremo più avanti sul tema appunto dell'imposta unica per i comuni. Si sono diffuse indiscrezioni di una volontà del governo di fermarsi su questo fronte, una volontà in parte smentita dal ministro dell'economia Giulio Tremonti, sentiremo la sua voce più avanti. Nel frattempo si apprende che Confindustria presenterà dopo l'estate al governo, in particolare appunto a Tremonti, una proposta di riforma del fisco, l'ha detto la presidente Emma Marcegaglia, spiegando che è stato deciso oggi dalla giunta di Via dell'Astronomia. Consiglio dei ministri importante oggi anche perché si è varato il regolamento sui servizi pubblici locali, insomma il regolamento attuativo del cosiddetto decreto Ronchi di liberalizzazione dei servizi pubblici locali. In mezzo a tutto questo ci sono anche le contestatissime norme sull'acqua. Come sapete, nei giorni scorsi sono state depositate le firme per il referendum, 1.400.000 firme. Dice il ministro agli affari regionali Fitto che il decreto attuativo completa appunto il decreto Ronchi. Le firme raccolte, dice però lo stesso Ronchi, il ministro per le politiche comunitarie Andrea Ronchi, sono una bugia. Sentiamo. L'acqua è e resta un bene pubblico, anzi questo nostro disegno di legge, questa grande iniziativa del governo rafforza il concetto di acqua pubblica e andremo a rompere tutte quelle situazioni di gestione che hanno fatto dell'Italia un primato assolutamente triste. Un solo dato, il 37% di dispersione dell'acqua con un costo di 2 miliardi di mezzo di euro l'anno per i cittadini. È una grande riforma ed è un fiore all'occhio del governo. Il dato fornito dal ministro Ronchi è decisamente impressionante. Andiamo alle questioni di Fiat. Ieri, anche con un certo anticipo rispetto a quanto si è sentito poi in serata, vi avevamo detto che l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, aveva di fatto annunciato lo spostamento di un investimento da 1 miliardo di euro da Mirafiori alla Serbia, ed è su questo che si appuntano le cose oggi, in una giornata nella quale tra l'altro Fiat ancora risente positivamente di quel che è stato comunicato ieri, il guadagno dell'1,76%. Bisogna dire che il mercato complessivamente è ottimo, quindi forse non è così indicativo. Allora, la scelta di spostare la produzione in Serbia sembrano confermare una linea basata sulla ritorsione, dice la segreteria nazionale della CGIL, che esprime preoccupazione per la continua indeterminatezza nelle decisioni che assume la FIA sul futuro delle produzioni negli stabilimenti italiani. Vi citavamo poco fa Sergio Chiamparino come presidente dell'ANCI, naturalmente è anche sindaco di Torino e quindi particolarmente interessato alle vicende di Mirafiori. Sentiamo che cosa ha detto a Savino Gallo. Gli impegni presi dalla Fiat nel progetto cosiddetto Fabbrica Italia erano diversi, cioè che quel tipo di produzione fosse fatta nello stabilimento di Mirafiori. Ora, io trovo paradossabile, non accettabile, che sia lo stabilimento di Mirafiori, cioè il primo che ha creduto nella possibilità di un rilancio dell'intero progetto Fiat in Italia, a pagare le conseguenze di un mancato accordo, di un accordo dimezzato su Pomigliano. Il mio difatti è un appello da una parte all'azienda perché prima di assumere delle decisioni rifletta, perché c'è un problema di affidabilità reciproca quando si assumono degli impegni, ed è un appello anche alle parti sociali perché si sforzino di comprendere che un progetto come quello denominato Fabbrica Italia è un progetto che ha caratteristiche direi quasi rivoluzionarie, se non volessi esagerare, per la situazione produttiva del nostro paese, che quindi bisogna guardare adesso con occhi completamente nuovi rispetto al passato, e questo vale per tutti. Quindi io credo che su questa base bisognerebbe ricostruire un terreno di confronto fra azienda, parte sociale e parte istituzionale per definire delle certezze, perché quello che non si può fare, e questo non lo posso accettare prima di tutto come sindaco di Torino, è di andare avanti navigando a vista su un terreno che riguarda la vita di migliaia di persone. Interviene su questo tema anche la presidente degli industriali, Emma Marcegaglia. Dice che incontrerà l'amministratore delegato di Fiat Marchionne nei prossimi giorni. Dice: credo che sia importante per seguire l'investimento a Pomigliano e raggiungere i livelli di produttività richiesti. Credo che tutto questo vada fatto cercando di evitare conflitti troppo pesanti, che alla fine non fanno bene a nessuno, ma anche senza mollare sugli obiettivi di produttività, aggiunge Marcegaglia. È un tema complesso. In chiusura di queste notizie in breve, un paio di trimestrali interessanti, in qualche modo collegate a quelle che vi abbiamo dato ieri, ossia gli ottimi risultati di Apple, perché anche in forza degli ottimi risultati di Apple, grazie all'iPhone e anche a Android, che è il telefonino di Google, Nokia chiude il secondo trimestre con utili in calo del 40%. L'utile netto è sceso a 227 milioni di euro da 380 milioni, risultato inferiore alle attese del mercato di utili pari a 285 milioni. E poi l'effetto iPhone sulla compagnia telefonica statunitense AT&T, che ha chiuso il secondo trimestre con utili superiori alle attese proprio grazie all'aumento dei contratti per l'iPhone. L'utile netto è salito a 4,02 miliardi di dollari da 3,2 miliardi. Vedremo quale sarà, ancora una volta, lo diciamo ancora una volta, quale sarà l'impatto del cosiddetto antenna gate su tutti questi utili ottimi, insomma, di iPhone per quanto riguarda AT&T e Apple. E adesso veniamo al primo tema di questa giornata, ossia i consumi. I consumi e più in generale la congiuntura economica. Iniziamo fornendovi qualche dato arrivato oggi dal centro studi di Confindustria, qualche cosa ci aveva già accennato nei giorni scorsi Luca Paolazzi, che è direttore del centro studi di Confindustria, quando abbiamo parlato dei dati su fatturato e ordinativi. Allora, si legge che la ripresa globale è destinata a frenare dopo la potente accelerazione superiore alle attese nella prima metà del 2010. I prossimi mesi si delineano di assestamento su ritmi elevati senza rischi di ricadute recessivi. Questa è la cosiddetta congiuntura flash del centro studi di Confindustria. E ancora, in Italia la ripresa è alla velocità di punta. Per il secondo trimestre il centro studi stima un aumento del PIL dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, dopo il più 0,4% di inizio anno. E ancora, l'inflazione resterà bassa, il pericolo maggiore è semmai la deflazione. Altre stime, quelle dell'ABI, più 0,9% per il PIL nel 2010, più 1,2% nel 2011 e 2012, il rapporto AFO diffuso dall'ABI. Il rapporto deficit-PIL dell'Italia nel 2012, ne siamo abbastanza lontani, sarà pari al 3,2% contro il 2,7% previsto dal governo, sempre l'ABI. Per quanto riguarda invece più espressamente le banche, un calo degli utili bancari del 60% nel 2010, un ritorno alla crescita nel 2011-2012. Però attenzione, questo non è una previsione vera e propria, ma una previsione in scenario di crisi, una previsione da stress test, appunto in caso di uno scenario sfavorevole per l'economia italiana. Insomma, stress test ormai è diventato un'espressione diffusa. Domani sera finalmente avremo i dati per quanto riguarda 91 banche europee. E veniamo a consumi e redditi. I dati sui redditi delle famiglie di questa mattina diffusi dall'Istat. I redditi sono scesi del 2,6% nel 2009. Considerato l'andamento dei prezzi, la flessione sul fronte del potere d'acquisto è del 2,5%. Si assottiglia ancora la capacità di risparmio, di 0,7 punti percentuali all'11,1%, il valore più basso dall'inizio degli anni 90. E il risparmio in se stesso anche, calcolato considerando la componente accumulata nelle riserve dei fondi pensione, come anche il trattamento di fine rapporto maturato, meno 8,4% rispetto al 2008. Registra l'Istat per le famiglie un lieve calo del carico fiscale sui redditi del 2009, al 15,3% dal 15,4% precedente. E ancora, il 2009 si è chiuso per le società non finanziarie con un calo del 5,4% del valore aggiunto ai prezzi base, cioè il PIL prodotto dal settore. Si parla delle imprese, quindi, imprese familiari che perdono 210.000 posti in due anni. Meno 2,6% le unità di lavoro nel 2009, meno 3,8% per quanto riguarda le imprese. Quante brutte notizie, per fortuna tra poco arriveremo alla borsa che, come vi dicevamo, ci ha regalato un'ottima giornata. E ancora, le previsioni di Confcommercio, un più 0,7 del PIL nel 2010, più 1% nel 2011. E ancora, bene la manovra, ma ora ci vogliono misure urgenti per le famiglie, insomma per rafforzare i consumi. Sentiamo il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, al microfono di Daniela Binello. Registriamo anche un dato negativo che è il raffreddamento dei consumi, un ulteriore indebolimento, che certamente questo è un dato preoccupante, al punto tale che il nostro ufficio studi ha preventivato per il 2010 un aumento dei consumi soltanto dello 0,4%. Allora, di fronte a questa situazione bisogna mettere in campo delle misure urgenti che non possono più aspettare. E la prima è certamente quella di ricreare, di consolidare un clima di fiducia delle famiglie attraverso alcune riforme qualificanti, come la riforma fiscale e quella del federalismo. Che noi chiediamo è quella di indicare un percorso rapido e chiaro di progressiva diminuzione della pressione tributaria sul lavoro e sulle imprese, e tutto questo per consentire investimenti e per favorire i consumi. Ci scrive giustamente Gianni da Genova: con queste notizie non capisco cosa c'è da festeggiare in borsa, insomma è una battuta, però insomma le cose oggi vanno piuttosto bene, insomma ci sono stati timori nei giorni scorsi, ve l'abbiamo raccontato, soprattutto sul fronte dell'economia americana, quindi probabilmente si festeggia il fatto che le cose dall'altra parte dell'oceano non vanno forse così male come si credeva. Comunque approfondiremo più avanti. Per quanto riguarda sempre i consumi, al palo, ma le vacanze sono sacre per il 42% degli italiani, questo emerge dal rapporto Confcommercio Censis sui consumi e il clima di fiducia. I dati del rapporto li ha commentati Giuseppe Roma, direttore generale del Censis, sempre intervistato da Daniela Binello. Nel primo semestre del 2010 c'erano molte aspettative di una ripresa e di un rilancio. In realtà i consumi non sono ripartiti, non è cresciuto il reddito, non è cresciuto il numero di occupati, anzi abbiamo visto che quasi il 5% delle famiglie ha perso un componente lavorativo. Quindi il modello di consumo è molto condizionato anche dal clima psicologico, direi anche dalla psicologia economica delle famiglie, perché non avendo dei risultati positivi anche in termini di redditi, per esempio da titoli di Stato, non avendo nessun rendimento dei propri risparmi, è venuto a mancare anche quel piccolo aiuto che però era un sostegno alla spesa. E infine la manovra certamente viene ritenuta una cosa importante, ma è qualcosa che colpisce tutti, quindi la reazione degli italiani è stata ancora più forte in termini di rinvio dei consumi e rinuncia ad alcuni consumi anche essenziali. Il modello austero, che sembrava un modello di consumo di risposta alla crisi economica, sta diventando un modello ordinario di comportamento, e questo naturalmente ci fa mancare la domanda interna. Gli unici due indicatori positivi sono che andranno in vacanza lo stesso numero di famiglie che sono andate lo scorso anno, quindi non c'è un peggioramento, sono il 42%, magari vacanza è più breve ma si farà vacanza, ed è diminuito il numero di famiglie che non ha pagato una rata del mutuo mutuo per la casa. Chiudiamo il capitolo sulla manovra, proseguono le proteste di varie categorie. Nel frattempo, come sapete, come vi abbiamo raccontato, si è concluso l'incontro con tra il ministro Fitto, le regioni, le province e i comuni, e c'è stato un netto no sulla manovra da parte di tutti questa volta, sia le regioni che i comuni, che erano sembrati più possibilisti nelle settimane scorse. Proseguono le proteste di varie categorie, vi abbiamo raccontato anche dei medici. In queste ore si stanno mobilitando gli agricoltori. Saluto allora Federico Vecchioni, presidente di Confagricoltura. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Allora, questa sera a partire dalle 19 negli spazi di Cremona Fiera, la prima delle due manifestazioni nazionali promosse da Confagricoltura per parlare naturalmente delle questioni che riguardano la manovra e nello specifico la vicenda delle quote latte, insomma questa proroga al pagamento delle multe che a Confagricoltura non va bene, e poi più in generale sui problemi strategici del settore. Allora, presidente Vecchioni, ci può dare qualche dettaglio in più? Che cosa chiedete al governo? Che cosa volete dal governo? Ma noi riteniamo che il governo debba inserire l'agricoltura a pieno titolo all'interno di questa manovra in termini di politiche di sviluppo. Siamo stati favorevoli agli impegni presi nei mesi precedenti per mantenere la coesione sociale, per la cassa integrazione in deroga che ha drenato 8 miliardi, tra cui risorse anche agricole. Abbiamo detto di sì ai tagli e all'efficienza della pubblica amministrazione, ma riteniamo che laddove si parli di politica dello sviluppo, quindi di politica economica per le PMI, cioè per le piccole e medie imprese, non si possa lasciare l'agricoltura fuori dalla considerazione politica dell'esecutivo. Quindi quello che è stato chiesto dal ministro Galan in queste settimane in termini di rispetto delle regole da una parte, pensando al latte, e di disponibilità economiche per il settore di incentivi, trova l'appoggio del mondo dei nostri agricoltori, della Confagricoltura, non in modo corporativo, quindi in questo senso la mobilitazione, seppur sindacale, nasce in riferimento agli interessi generali del paese, cioè noi parliamo di alimentazione, parliamo di prodotti, di materie prime che alimentano l'industria alimentare italiana e la distribuzione italiana, cioè il 15% del prodotto interno lordo. Ogni tanto si ha la sensazione che il PIL serva per le politiche rigoriste di bilancio, ma ci si dimentichi che il prodotto interno lordo viene fatto dalle imprese, non da diciamo soggetti indifferenziati. Presidente, si ha però l'impressione che ormai la manovra sia blindata, più che l'impressione è una realtà, insomma. Il ministro Tremonti ha detto chiaramente che si andrà di nuovo alla fiducia, quindi la speranza di accoglimento delle vostre richieste nella manovra è abbastanza complicata. È complicata, anche se noi abbiamo per il nostro settore specificato che ci possono essere anche altre misure, tra cui i decreti successivi alla manovra, che potranno mettere a disposizione del nostro comparto le risorse necessarie, tenendo presente che aumentare il costo del lavoro dal 1° agosto per 1.400.000 imprese agricole significa certamente non agevolare la ripresa, e in un momento come questo fare una grande discriminazione tra chi ha, torno a dire, delle misure di contenimento delle proprie difficoltà, come il settore pubblico o la grande industria, e chi invece, la piccola e media impresa, rischierebbe di trovarsi paradossalmente penalizzata da un aumento dei propri oneri anziché da misure di incentivo. Quindi noi riteniamo che le condizioni ci siano ancora, e tutto questo sta alla volontà politica dell'esecutivo, partendo dal presupposto che sostenere il ministro dell'agricoltura in un esecutivo in cui c'è una linea del rigore che è un po' a corrente alternata, perché per alcuni provvedimenti le risorse si trovano, per altri provvedimenti non si trovano, può apparire paradossale, ma è un po' lo specchio della politica italiana di questi giorni. Brevemente, ci può dare tre o quattro esempi concreti di cose che richiedete? Ma allora, noi riteniamo indispensabile intervenire sulla fiscalizzazione del lavoro. Cosa significa? Significa avere quei 90 milioni di euro che al 31 di luglio servono alle imprese agricole in tutte le zone italiane diciamo interessate dall'agricoltura, quindi 12 milioni e mezzo di ettari, in cui noi abbiamo la necessità attraverso questa misura di mantenere invariato il costo del lavoro. se questi 90 milioni non venissero stanziati e stabilizzati, noi rischieremmo di avere un'impennata di oltre il 50% del costo previdenziale del lavoro, non del salario, e quindi assolutamente in controtendenza rispetto appunto alle misure di mantenimento dell'occupazione che sono state varate per gli altri settori, tenuto conto che l'agricoltura occupa 1.400.000 persone ancora oggi nel paese a retto in termini di occupazione. Poi c'è il comparto dello zucchero che richiede medesimo sostegno per il comparto agroindustriale e le misure che riguardano il gasolio per le serre, anche qui un contenimento delle accise che l'agricoltura ha sempre avuto, che non rappresenta un aiuto ma un incentivo in termini di sostegno al settore che fino ad oggi è stato interessato da questa misura e che invece oggi rischierebbe di essere dall'assenza di questa misura penalizzato. Infine un'ultima nota, Presidente, sulla questione che è stata sulla bocca di tutti e sulle cronache dei giornali molto spesso in quest'ultimo periodo, anche in forza della presa di posizione molto forte del Ministro dell'Agricoltura, appunto Galan, e della vicenda delle quote latte. Ieri tra l'altro la maggioranza è andata sotto in Commissione Agricoltura sulla vicenda delle quote latte, più una questione tecnico-politica più che una questione che avrà un effetto diretto sulla manovra. Avete una qualche speranza di modifica all'ultimo minuto? Ma la speranza è che, tenuto conto che il provvedimento è un emendamento che, diciamo, come è stato detto anche in Commissione Agricoltura in sede consultiva, ha diverse criticità applicative e quindi è molto impreciso, diciamo così, quindi probabilmente non produrrà effetti. Ma il dato è, come diceva lei, è tutto politico, cioè un confronto PDL-Lega, è un confronto Ministro dell'Agricoltura o Lega Nord, molto radicalizzato. Noi siamo dell'avviso che le posizioni assunte dal Ministro Galan siano quelle che rappresentino la maggioranza degli allevatori, la stragrande maggioranza degli allevatori. Questo sistema ha avuto più leggi che hanno consentito a tutti di rientrare nelle regole, c'è chi ha deciso di rimanere fuori da queste regole e questi non possono essere, diciamo, soggetti che ancora una volta prendono sopravvento su cui invece ha rispettato la legalità ed è stato, ha mantenuto l'impegno anche finanziario di pagare le multe. Grazie dunque a Federico Vecchioni, presidente di Confagricoltura, associazione che, lo ricordiamo, è la principale associazione del settore agricolo italiano e raggruppa i 2/3 delle imprese agricole italiane. Grazie, presidente Vecchioni, e buonasera. Arrivederci. E per chiudere il capitolo che riguarda la politica economica, poi ci torneremo subito dopo le borse, il CIPE ha comunicato questa mattina, il ministro Altero Matteoli ha dato il via libera a 2,1 miliardi di euro di investimenti, tra questi sono compresi il progetto definitivo della linea C della metropolitana di Roma e da altri progetti particolari, la convenzione per la realizzazione dell'autostrada Ragusa-Catania per 850 milioni di euro, un atto aggiuntivo alla convenzione della Brebemi già in corso di realizzazione. È interessante da notare che in tutto questo il CIPE ha anche stanziato 49 milioni di euro per il più grande stabilimento per la fabbricazione di pannelli fotovoltaici in Italia in prospettiva in Europa. È uno stabilimento del quale vi avevamo accennato nei mesi scorsi, un accordo tra Enel, ST Microelectronics e Sharp, proprio appunto per creare questo stabilimento. Arriva da parte della Regione Sicilia e da parte delle tre aziende un ringraziamento al governo. E siamo ai mercati. Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Piacere di averti nel commentare questa splendida giornata. Sì, infatti oggi le borse hanno chiuso in deciso rialzo dopo un avvio sottotono, spinte soprattutto dall'andamento positivo di Wall Street, visto le trimestrali positive pubblicate oggi e i dati macro che sono risultati migliori delle attese. Questo per quanto riguarda il quadro complessivo. Il FTSE All Share, si diceva, ha chiuso con un guadagno del 2,60%. Ormai l'abitudine, insomma, fa sbagliare un pochino. Il FTSE MIB un guadagno del 2,76%, il Dow Jones guadagna 2 punti percentuali, il Nasdaq il 2,40%, tutto bene anche nel resto d'Europa. La migliore è Parigi, un guadagno del 3,05%. Prima di andare sui singoli titoli, vorrei partire dal grande tema. Ormai non ne possiamo più, ormai mancano nemmeno circa 24 ore ai famosi stress test, alla comunicazione stress test sulle banche. Le indiscrezioni che sono circolate oggi evidentemente sono positive, Livia. Sì, allora bisogna dire che il comparto bancario in Europa ha chiuso con un rialzo del 3%, quindi domani alle 18 saranno resi noti i risultati degli stress test. Per quanto riguarda le banche italiane, oggi il Messaggero, le indiscrezioni hanno riportato che i 5 istituti italiani, quindi Unicredit, Intesa, San Paolo, MPS, il Banco Popolare e UBI, hanno superato ampiamente l'esame con risultati differenziati. I migliori risultati sono stati quelli riportati da Unicredit e Intesa, sempre secondo le indiscrezioni, con il Tier 1 intorno all'8%. Quindi buoni risultati a quanto sembra, stando alle indiscrezioni, in termini assoluti, insomma, a prescindere dal criterio che si è scelto per questi stress test, che è un pochino sotto osservazione. Intesa San Paolo in effetti è il titolo migliore sul FTSE MIB, un guadagno del 4,75%, Unicredit un guadagno del 3,12%, molto bene oggi Prismian, un più 4,46%, c'è un motivo particolare? Sì, il titolo ha beneficiato delle dichiarazioni dell'amministratore delegato Valerio Battista, che ha annunciato prospettive positive per il futuro. Battista ha infatti dichiarato che il secondo trimestre è sicuramente andato meglio del primo e vi sono i primi segnali di fiducia, anche se non si può essere ancora troppo ottimisti. Quindi il numero uno di Prismian ha spiegato inoltre che la società in poco meno di un mese ha chiuso contratti per quasi 700 milioni di euro, soprattutto in Europa e Abu Dhabi, e ci sono i primi segnali di ripresa. Allora, ci togliamo al volo questa questione. Un ascoltatore ci ha scritto per 3 volte come è andata Saipem, ha guadagnato il 2,44% nella media di questa ottima giornata, come si diceva. All'indomani di tutto quel che abbiamo sentito e tutto quel che abbiamo raccontato, Fiat continua ad andare bene, Livia. Sì, Fiat ha chiuso infatti la seduta con un rialzo del 2,12% dopo il più 6% circa segnato alla vigilia. Allora, quindi oggi è arrivata un'altra serie di giudizi positivi da parte degli esperti, quindi degli analisti, dopo la pubblicazione di conti e dei dettagli sulla scissione dell'attività non auto. Il titolo quindi non ha risentito del giudizio di Moody's arrivato ieri sera a mercati chiusi, che ha messo sotto revisione per un possibile downgrade i rating assegnati all'ingotto. I giudizi positivi in particolare oggi sono stati quelli di Societe Generale e Unicredit, che hanno alzato il giudizio sul titolo portandolo a buy, quindi hanno dato un consiglio di acquisto. Inoltre, secondo gli analisti, il consenso dovrà essere rivisto per le previsioni rilasciate dall'amministratore delegato del gruppo, Sergio Marchionne. Per quanto riguarda Mediaset è andata bene anche qua, oddio, non ci vuole un grosso sforzo, perché oggi non c'è, sul FTSE MIB almeno non c'è un titolo in negativo. Considerate che il peggiore è Campari, un guadagno dello 0,41%, seguita da Terna più 0,64%, Exor più 0,88%, Snam Rete Gas più 1,15%, questi sono i 4 peggiori insieme ad Autogrill, che guadagna un 1,25%, però c'è qualche dettaglio in più che riguarda Mediaset, no Olivia? Sì, Mediaset ha chiuso a più 3,07%, quindi quasi in linea con la chiusura dell'indice. Il titolo è stato sostenuto dall'incremento dalle stime sull'incremento della raccolta pubblicitaria e anche quindi dall'incremento del giudizio da parte di Goldman Sachs, che ritiene ora il titolo neutrale rispetto al precedente giudizio di vendere. Allora, secondo gli analisti, il titolo ora tratta una valutazione adeguata rispetto ai concorrenti, mentre da inizio anno le azioni hanno mostrato un andamento peggiore rispetto quindi ai competitor del settore. Restano comunque alcuni rischi per il gruppo, sempre secondo gli esperti, come l'aumento della competizione nel digitale terrestre dopo l'ingresso di Sky. Infine un titolo minore che però, diciamo, è abbastanza popolare, quello della Roma Calcio, Olivia. Sì, allora la La Roma Calcio ha chiuso in rialzo del 3,9% circa, questo in vista, quindi il mercato sta festeggiando in vista della firma dell'accordo tra la famiglia Sensi e Unicredit, quindi l'intesa riguarda l'azzeramento del debito della società della famiglia Sensi, quindi della Italpetroli, e il primo punto dell'intesa è appunto l'avvio della procedura di vendita della S Roma sotto il controllo, si viene spiegato, di soggetti di fiducia della banca, e quindi la destinazione dell'intero ricavo a rimborso del debito verso la banca guidata da Alessandro Profumo. Dunque vedremo che cosa succederà poi effettivamente, appunto, per quanto riguarda la Roma. Grazie nel frattempo a Livia Zancaner di Radio Corriere del Sole 24 Ore. Buonasera Livia. Buonasera. Per quanto riguarda i restanti titoli, insomma, signori, siamo tutti su guadagni che vanno dai 2,5% percentuali ai 4,5% percentuali. Vi possiamo dire che tra le banche, oltre ad Intesa, c'è la Popolare di Milano che guadagna il 4,36%, il Monte dei Paschi il 4,27%, sopra il 4% Azimut, sopra i 3,5 percentuali troviamo Buzzi Unicem, Unipol, Lottomatica, Telecom Italia, Impregilo, il Banco Popolare, Finmeccanica, un 3,30% per Ciro, un 3,12% per Unicredit, di Mediaset si è detto, appena sotto i 3% Luxottica e Bulgari, Mediobanca in guadagno del 2,7% come Italcementi, Mediolanum del 2,62%, UBI del 2,60% così come Pirelli e Generali, Saipem del 2,44%, Eni ed Enel del 2,36% e 2,28%, Settima Creatronics del 2,27%, Fondiaria Sai del 2,14% e degli altri vi abbiamo detto. Con la borsa americana che va benissimo, nonostante queste parole di ieri del presidente della Fed, Ben Bernanke. Anche se la Federal Reserve continua ad essere prudente sul piano di ritiro delle misure straordinarie di politica monetaria, riconosciamo che le prospettive economiche degli Stati Uniti restano insolitamente incerte. La Federal Reserve è determinata ad agire, se sarà necessario, con altre misure per aiutare la crescita economica, che continuerà ad essere moderata, con un graduale calo della disoccupazione e un'inflazione sotto controllo nei prossimi anni. L'aumento medio di 100.000 posti di lavoro al mese è insufficiente a ridurre in modo sensibile la disoccupazione e probabilmente ci vorrà un considerevole periodo di tempo per recuperare i quasi 8,5 milioni di posti persi nel 2008 e nel 2009. È anche vero che la crescente domanda da parte di consumatori e imprese aiuta a sostenere la ripresa. In particolare, la spesa per consumi è salita del 2,5% su base annua nella prima metà dell'anno. E dunque, queste le parole di Ben Bernanke che ci avrebbero fatto pensare ad un, come dire, ad un andamento peggiore delle borse. Ci chiede di Geox un ascoltatore, lo abbiamo detto, un più 4,48%. Se dovessimo dare anche le quotazioni dei titoli, così rispondiamo una volta per tutte, diventeremmo matti, perché poi ci sono anche, no, i centesimi. E poi ci fa notare William da Ascoli Piceno: quando ci sono le borse in perdita si parla di milioni di euro bruciati, noi non usiamo questo termine. Ci dice oggi quanti sono i guadagni in euro, vedremo se riusciremo a capirlo. William, di certo non posso mettermi adesso a fare i calcoli, è un po' complicato. E adesso passiamo ad un altro argomento, ossia il federalismo. Si diceva che c'è stato il primo via libera del Consiglio dei Ministri al decreto attuativo del federalismo fiscale, quello che riguarda i fabbisogni standard di comuni e province. Il testo ora passerà all'esame della conferenza Stato-Regioni e della commissione bicamerale per il federalismo. C'è qualche dettaglio che è stato diffuso, ve lo accennavamo in apertura: il blocco ai fondi per i comuni che non collaborano, poi lo stop al criterio della cosiddetta spesa storica e i servizi che verranno giudicati anche in base al giudizio degli utenti. E poi c'è un altro tema su cui si